Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, anche oggi siamo insieme come ogni giorno a mezzogiorno per parlare di salute, di prevenzione, di stile di vita, e anche oggi partiamo dall'attualità che ci offre sempre spunti interessanti per imparare qualcosa di nuovo e di utile per la nostra salute. Domani, una data importante, domani 5 novembre si apre a Milano il G7 della salute. Saranno presenti i ministri della salute dell'Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, ma sono attesi anche il commissario dell'Unione Europea alla Salute, i direttori di OMS, FAO, OCSE ed EFSA, e sono queste organizzazioni che a livello mondiale si occupano di salute, alimentazione e ambiente. Una 2 giorni che prevede un fitto programma di lavoro su temi emergenti. Al centro della discussione sarà il tema dell'impatto dei fattori climatici e ambientali, ma si parlerà anche di salute delle donne, degli adolescenti e a seguire di resistenza antimicrobica. A presiedere l'incontro il ministro Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi a Obiettivo Salute Weekend per una sorta di anteprima G7 Salute. Ministro, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti voi, e complimenti per questo bellissimo programma che lei conduce tutte le mattine. Grazie, mi emoziona. Allora, partiamo da quello che è considerato uno dei temi centrali, e cioè l'impatto dei fattori climatici e ambientali sulla nostra salute e su quella delle generazioni a venire. Questo G7 è particolarmente importante perché l'Italia ha portato per la prima volta nella discussione internazionale, nel dibattito internazionale, il tema dell'impatto dei cambiamenti climatici e anche dell'inquinamento ambientale sulla salute delle persone e degli animali. Lo abbiamo fatto con un metodo nuovo che si chiama Delphi, cioè con più di 700 interviste ai massimi esperti da tutto il mondo, e quindi inquadrando la materia e anche i dati che noi andremo a discutere in queste 2 giornate su basi assolutamente scientifiche, e su queste ci muoviamo per prevenire anche una serie di patologie nuove e emergenti che noi dobbiamo affrontare, e anche per metterci di fronte a quelle che saranno le grandi sfide dei prossimi anni. Pensiamo ad esempio a tutto il tema della mancanza di acqua, che noi abbiamo visto in questa nostra estate, ma che per esempio in altre parti del mondo implica anche migrazioni di milioni di persone. Quindi tra le azioni per esempio che sono previste azioni anche infrastrutturali sull'acqua o di sanificazione dell'acqua. Abbiamo tutto un tema enorme legato all'impatto degli insetti, dei vettori, delle malattie, che appunto con i cambiamenti climatici sono un fatto nuovo. L'abbiamo visto nella nostra Italia con la chikungunya, con malattie come la dengue o il Zika, che sembravano malattie confinate alle aree tropicali del pianeta, e che invece stanno anche questi virus emergendo nei nostri continenti a clima temperato. Quindi è veramente questo un G7 di avanguardia dal punto di vista salute, che però stiamo affrontando anche con grande entusiasmo e in modo totalmente scientifico, e dando anche attraverso lo studio dei massimi esperti mondiali quelle che possono essere delle azioni che sia i paesi G7 sia che dai paesi diciamo mondiali che sono nell'area di influenza anche delle grandi organizzazioni potremo intraprendere nei prossimi anni. Al G7 della salute si parlerà anche della salute della donna e di adolescenti. La donna deve rimanere al centro. Quando si parla della salute della donna, del bambino in ambito G7, ovviamente si tratta di una concezione molto più ampia. Quindi parliamo non solo della prevenzione per quanto riguarda la salute della donna, ma anche di come la donna sia vettore essa stessa di salute all'interno dei nuclei familiari o delle comunità in cui vive, della sensibilizzazione degli adolescenti. Parleremo anche della necessità dell'educazione delle donne, della formazione delle donne e della promozione della cultura delle donne contro la violenza di genere. Quindi verranno affrontati molti aspetti che poi riguardano nel complesso la salute della mamma e del bambino, della donna e del fanciullo, e in questo la donna, e noi l'abbiamo fatto anche in Italia con la nostra giornata della salute della donna, è un caregiver importantissimo di salute per se stessa, e per la propria famiglia. E per esempio uno dei temi che è uscito fortissimo dal Delphi, appunto, dove ripeto un tema mondiale, è stato il lavoro sulle immunizzazioni, quindi sulle vaccinazioni. Quindi questo vale per le donne e i bambini, ma vale anche per esempio per la prevenzione da molte malattie correlate, quindi sarà uno dei temi, quello dei vaccini di questo G7. E si parlerà anche di antibiotico resistenza. Secondo l'OMS è la più grande minaccia per la salute negli anni a venire. Ministro, però con il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza l'Italia si adegua al contesto internazionale. Tra l'altro nei giorni scorsi anche la Stato Regione ha approvato il documento. Esattamente, è stato approvato questo documento che è stato stilato dalla Direzione della Prevenzione del Ministero e poi approvato dal Consiglio Superiore di Sanità e poi è arrivato in conferenza. Un documento molto importante perché anche noi siamo in ritardo sull'antibiotico resistenza, ma non solo noi, cioè abbiamo fatto molto in questi anni per quanto riguarda il contrasto alle infezioni e nel settore dell'antibiotico, nell'uso degli antibiotici degli animali, dove siamo diciamo avanti rispetto ad altri paesi, anche G7, ma dobbiamo ancora fare molto proprio nell'educazione al consumo degli antibiotici e poi al contrasto delle infezioni ospedaliere. Il tema delle infezioni ospedaliere collegate all'antibiotico resistenza è uno dei temi principali, come ha dichiarato l'OMS, potrebbe essere una delle prime cause di morte. E questo perché noi sviluppiamo una tale sensibilità e assuefazione agli antibiotici per cui poi quando contraiamo un'infezione e dobbiamo essere curati non ci fanno più nulla. Così come abbiamo creato dei super virus, dei super batteri che non rispondono più. Allora da questo punto di vista, per esempio, uno degli aspetti di cui parleremo anche quello della ricerca e di azioni, faremo il punto della situazione sulle azioni sia per quanto riguarda la salute animale che delle persone e per mettere anche appunto nuove best practice da adottare. Ministro, prima di salutarla, un altro appuntamento importante: tra due settimane la decisione dell'Unione Europea, attesa appunto per il 20 novembre, sul nuovo quartiere generale dell'Agenzia Europea del Farmaco, che dovrà lasciare Londra dopo la Brexit, e Milano si è candidata, ha offerto il pirellone per ospitare gli uffici e i dipendenti di EMA. Ce la faremo? Ce la farà allora, Milano? Guardi, innanzitutto questo weekend sarà un'altra vetrina mondiale e europea a Milano, per Milano, per EMA, che si candida a ospitare EMA, e sarà anche l'occasione insomma per ribadirlo. Ovviamente noi stiamo andando avanti in una serie di trattative che se non posso raccontare perché altrimenti non sarebbe. Ogni paese fa le sue, insomma c'è una grandissima competizione. Si immagini solo che tutti i candidati del Sud Europa sono, tutti i paesi Sud Europa sono tutti candidati, quindi ognuno tende a votare prima se stesso e poi gli altri. Noi stiamo lavorando, io sono abbastanza fiduciosa, nel senso che il lavoro che stiamo portando avanti sta dando dei risultati, ma non posso dire di più perché il 20 novembre ci sarà la votazione, la prima votazione, e lì lavoriamo per raggiungere più accordi possibili. È ovvio che EMA, che Milano ha tutte le carte in regola per ospitare l'agenzia, tutte, cioè, da tutti i punti di vista. Ci sono altre candidature forti e qui si stanno scatenando tutti gli accordi, insomma questa è una trattativa serratissima, però penso che noi possiamo veramente giocarci questa partita fino in fondo. Preparati e agguerriti, grazie per essere stata con noi. Buona salute, grazie, buona giornata. Grazie. Adesso facciamo una pausa, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme a Obiettivo Salute Week. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Obiettivo Salute Weekend. Siamo ritornati insieme e noi continuiamo a parlare di batteri, anzi di superbatteri, in grado di resistere a tutto o quasi gli antibiotici disponibili. È una minaccia seria che preoccupa governi, preoccupa organizzazioni internazionali e di cui noi probabilmente come cittadini non ne percepiamo la gravità. Allora, vogliamo farci spiegare come esattamente stanno le cose e soprattutto farci aiutare da un grande esperto. Saluto il professor Francesco Menichetti. Buongiorno professore. Buongiorno. Direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa e presidente del gruppo italiano per la stewardship antimicrobica, il GISA. Professore, intanto voglio raccontare ai miei ascoltatori che, direi, in armonia con il recente documento emanato dal Ministero della Salute per la gestione dell'antibiotico resistenza, il GISA ha realizzato un decalogo per il corretto uso degli antibiotici e per il contenimento delle resistenze batteriche in Italia. Un documento che dovrebbe suggerire, anzi suggerisce, delle azioni che possono contribuire a passare dalla teoria alla pratica. Mi passi questa, così, questa facile traduzione. È esattamente l'obiettivo che ci proponiamo, perché siamo convinti che i cosiddetti superbatteri altro non siano se non il frutto di un nostro utilizzo degli antibiotici che non sempre ha saputo essere corretto, ha saputo essere prudente. Questa eccessiva mancanza di appropriatezza nell'utilizzo degli antibiotici, che spesso vengono prescritti senza reali indicazioni e senza giovamento effettivo per i pazienti, ha generato l'incremento delle resistenze dei microbi a questi farmaci salvavita. Bisogna correre ai ripari, è già tardi, ma possiamo ancora affrontare la battaglia in modo serio, sperando di controllare questa che è una minaccia molto grave. Ecco, è una minaccia molto grave di cui, professor Menichetti, noi come cittadini non ce ne rendiamo davvero conto, cioè non ne abbiamo la percezione. Ad esempio, se io proviamo a pensare qual è l'ultima volta che abbiamo preso un antibiotico e se lo abbiamo fatto su indicazione del nostro medico oppure abbiamo magari approfittato della confezione rimasta nell'armadietto dei farmaci, può capitare. E poi un'altra domanda che forse ci aiuta a così portare la nostra attenzione su questo problema è di cercare di ricordare se quando assumiamo gli antibiotici rispettiamo le dosi, i tempi e la durata della terapia, oppure tendiamo a fare un po' di testa nostra e quindi quando vediamo, percepiamo un miglioramento, l'antibiotico lo riponiamo nell'armadietto. Professor Menichetti, da quanto lei ci ha raccontato ho capito che i superbatteri derivano proprio da un uso inappropriato degli antibiotici, ne usiamo troppi e male, è corretto? Sì, direi che in estrema sintesi è proprio così. Certo, i protagonisti di questo uso inappropriato sono sicuramente i medici e in ospedale, anche se il consumo di antibiotici per il 90% si verifica nel territorio, al di fuori dell'ospedale, la grande selezione di microrganismi resistenti, l'impatto più significativo si ha nell'uso proprio ospedaliero, quindi i medici sono in qualche modo protagonisti di questo fenomeno e debbono loro in prima istanza correre ai ripari e quindi adottare dei comportamenti anche appunto supportati dagli elementi diagnostici di laboratorio e così via che li portino a un uso più adeguato, appropriato. Ma c'è anche, come lei giustamente ricordava, una eccessiva confidenza con dei farmaci che hanno un elevatissimo indice terapeutico. Tradotto, sono farmaci che fanno bene senza fare granché male. Ecco, questo è l'indice terapeutico, e che troppo spesso si trovano a nostra disposizione nelle case degli italiani come residuo di terapie pregresse e altrimenti prescritte. Ecco, e il rischio è di ricorrere all'autoprescrizione, all'auto soprattutto somministrazione, cioè si ha una sindrome febbrile, magari respiratoria, magari siamo in periodo influenzale e abbiamo il figlio con la febbre o noi stessi abbiamo la febbre e si apre l'armadietto, in bagno si trova il residuo di una precedente terapia antibiotica e la si assume con troppa leggerezza e senza avere preventivamente consultato il proprio medico curante, e inoltre la si assume per un periodo incongruo, come lei giustamente ricordava, perché come va via la febbre, di solito questo succede in 2-3 giorni se la situazione non è particolarmente grave o seria, beh, noi lo interrompiamo contribuendo ulteriormente quindi alla genesi della resistenza. Ecco, questo è un esempio banale di uso inutile, perché la gran parte delle infezioni respiratorie stagionali in periodo influenzale sono virali, quindi non si giovano dall'antibiotico. L'antibiotico è inutile e può far male, in più viene assunto per un periodo incongruo, quindi l'eventuale infezione batterica non viene eradicata, ma il microbo ha la capacità di sopravvivere adattandosi al veleno e quindi divenendo resistente. Questa è un po' la situazione. Quindi non è solo un allarme per i tecnici, diciamo, per i medici, per chi prescrive gli antibiotici, ma anche per la stessa popolazione che può essere protagonista di questo uso improprio e deve avere una superiore, maggiore coscienza nella necessità, nell'importanza di preservare questi farmaci, perché sennò andremo incontro a giorni ancora più bui di quelli che stiamo vivendo oggi. Professore, tra l'altro, un uso incongruo di antibiotici, quindi usarli troppo o male, rischia quindi di sviluppare delle pericolose resistenze che possono ridurre l'efficacia per infezioni e problemi di salute molto più seri. Penso ad esempio alle polmonite batteriche o alla meningite. Questo può succedere dentro e fuori l'ospedale. Anche questo è un'affermazione assolutamente giusta, sacrosanta e corretta. Il fattore che maggiormente espone al rischio di avere un'infezione causata da microbi resistenti o multiresistenti è la recente assunzione di terapia antimicrobica, antibiotica. Questo in generale. Ecco, se un paziente che viene dalla comunità e che si ricovera perché ha un'infezione grave in ospedale, in terapia intensiva o in un reparto di emergenza, ha nel suo recente passato, diciamo nell'ambito dei 3 mesi precedenti, assunto per qualunque ragione una terapia antibiotica, bene, quel paziente ha una maggiore probabilità, un'elevata probabilità di avere un'infezione causata da germi, da microbi resistente agli antibiotici. Quindi questa è un'affermazione assoluta che ha una valenza molto molto importante anche nei nostri, diciamo, comportamenti di cittadini e nei comportamenti dei tecnici, quindi dei medici. Professore, prescrittori. Abbiamo quindi sottolineato l'importanza di evitare l'uso improprio di antibiotici, e questo è un periodo dell'anno in cui ci sono le forme influenzali, quelle che io chiamo le cugine dell'influenza vera. La raccomandazione quindi è di non utilizzare gli antibiotici, non servono, ma qualora il medico per un altro nostro problema di salute ci prescrivesse l'antibiotico, quali sono le attenzioni per assumere la terapia antibiotica in modo corretto? Beh, bisogna seguire in modo pedissequo quelle che sono le indicazioni ricevute dal curante, cioè l'antibiotico va assunto nelle dosi prescritte, con gli intervalli tra le somministrazioni che sono chiaramente indicati e per il periodo definito. Solitamente noi tendiamo a gestire in modo non corretto le terapie antimicrobiche, quelle da prendere 3 volte al giorno le riduciamo magari a 2 a 1 e le durate di 7 giorni vengono ridotte spesso a 5-3 giorni, cioè abbiamo insomma una tendenza purtroppo non corretta e di cui non si coglie la potenziale pericolosità, perché le conseguenze non sono immediate, non sono come un debito deve essere saldato al momento, e però poi alla fine si pagano. Ci sono dei dati da paura, perché nel secondo l'allarme lanciato dall'OMS nel 2050 le morti per microorganismi multiresistenti, quelli che cioè se ne fanno un baffo degli antibiotici, saranno 10 milioni all'anno e quindi supereranno epidemia. Ecco, una vera epidemia. Cerchiamo, ciascuno di noi può fare la sua parte e intanto una buona parte, informandoci adeguatamente, con chiarezza, l'ha fatta anche il professor Menichetti oggi a Obiettivo Salute Weekend. Professore, io la saluto, le auguro un buon weekend, la ringrazio e spero di averla qua a Obiettivo Salute Weekend presto, perché proprio il 18 di novembre ci sarà una giornata proprio dedicata per sensibilizzare la popolazione sull'uso corretto degli antibiotici e per evitare la proliferazione di questi super batteri, questi mostri. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, grazie, buon weekend. A presto. Per oggi è tutto, ma noi ci risentiamo domani con la bufala in tavola. Vi aspetto, parleremo naturalmente di alimentazione e di fake news con una puntata dedicata in modo particolare ai nostri bambini. Buon sabato, vi aspetto domani. Un saluto da Nicoletta.